Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. E quindi buonasera, buonasera e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata delle dirette di Radio Wombat. Spero che mi sentiate, ho fatto un gran pastrocchio qua, però contro ogni mia previsione sembra che tutto funzioni e quindi io vado avanti, lancio in resta come se nulla fosse. Quindi io sono Mario, benvenuti all'ascolto della consueta diretta serale delle 19 che dall'inizio della segregazione, del confinamento, continuiamo a produrre qua sulla radio. Allora, oggi un sacco di argomenti, sentirete soprattutto la mia voce, almeno per la prima ora del programma, e parleremo di un sacco di cose, parleremo della TAV fiorentina, andremo alle carceri turche, parleremo dello sciopero dei riders, delle lotte zapatista e poi ancora un sacco di argomenti: la Firenze solidale, il festival di letteratura sociale, Casa Rossa occupata a massa e poi nuove radio autogestite, poi medici albanesi, viaggi interstellari, Kim Jong-un e tanto altro. Come sempre, sottofondi belli, come questo dei Pogues, ma pessime canzoni dalla mia selezione musicale. E poi, nella seconda ora, invece, sentiremo un radiodramma al teatro, una pièce radiofonica. Quindi, ricordo innanzitutto come contattarci. Si può utilizzare l'indirizzo mail postawombat@insiberia.net. Devo aprirla, ma appena metto la prima canzone lo faccio e ce l'avrò qui davanti. Oppure potete utilizzare il pad che trovate nella home della radio, nella prima pagina del sito della radio, c'è il link alla diretta, potete interagire con me scrivendo lì, commentate, insultate, fate davvero ciò che volete. Allora, sto controllando se funziona internet, mi sembra di sì. Datemi un feedback, amici che siete all'ascolto, e poi, già che ci sono, insomma, faccio presente a Melody che per interagire col Wombat c'è scritto in rosso diretta Wombat Melody, in prima pagina, diretta Wombat. Va bene, dai, mettiamo subito la prima canzone di riscaldamento e poi iniziamo con la nostra rassegna stampa. La svolgeremo così, faremo notizie cittadine, poi regionali, poi nazionali e poi andremo su quelle internazionali. Seguiremo quest'ordine e proveremo a unire un po', come dire, il sacro e il profano, l'alto e il basso, faremo un gran mescolone, speriamo di non farne troppo. Motivé, motivé, motivé. la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé. Il faut rester motivé. Motivé, motivé. Il faut se motiver. Motivé, motivé. Soyons motivés. Motivé, motivé. Motivé, motivé. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ouais, partisan. Ed eccoci, eccoci, mi avete fatto cenno che si sente bene, allora iniziamo con la rassegna stampa di oggi. Partiamo come sempre, del resto ormai, da Firenze e precisamente partiamo dal quotidiano Repubblica. Dal quotidiano Repubblica che nella sua sezione locale alcuni giorni fa ha pubblicato un articolo che preannunciava la ripresa dei lavori al sottoattraversamento TAV Fiorentino dal prossimo giugno. L'articolo non citava alcuna fonte, fonte che anch'io, assieme a diversi altri, ho provato a cercare, ma né sul sito della regione, né su quello del ministero, e nemmeno su quello delle ferrovie c'era niente. Eppure sarebbe, sì, opportuno capire l'origine di questa notizia divulgata da Repubblica, che soprattutto in questo momento mi sembra di una gravità incredibile. Al riguardo ha rilasciato un comunicato anche il comitato No Tunnel TAV di Firenze, che scrive quanto segue. Premesso che i problemi tecnici, come sulle terre di scavo, ma non solo, non sono risolti, ancora non risulta realizzato un progetto alternativo a quello esistente, e tantomeno siamo in vista di una VIA, che sarebbe la valutazione di impatto ambientale, relativa allo stesso progetto. Lascia basiti che si pensi ad una ripartenza dei lavori in mezzo a una crisi sanitaria che prospetta anche una crisi economica profondissima, con numeri agghiaccianti per il futuro. E prosegue poi più avanti il comunicato e scrive: le grandi opere inutili sono uno dei peggiori strumenti per il rilancio del paese. creano pochissima occupazione, cioè poca ridistribuzione di ricchezza, e vanno ad aggravare pesantemente un debito pubblico che è già un oggettivo problema. È davvero strabiliante che solo si pensi ad una politica economica del genere e non si seguono le indicazioni dei tanti che vedono nella riconversione economica ed ecologica l'unico futuro possibile per il paese e il pianeta. È da incoscienti auspicare ancora pacchi di cemento da imporre alla città per tutelare gli interessi e i profitti di pochi. Non possiamo che essere del tutto d'accordo con quanto scrive il comitato No Tunnel TAV e ovviamente seguiremo e vi daremo anche conto, certamente. Ancora un comunicato per la seconda notizia, è quello pubblicato dai riders fiorentini due giorni fa, il 1 maggio. Infatti non solo a Torino e magari da quella città che sono circolate sui media le maggiori fotografie, immagini delle proteste dei rider, ma anche a Firenze e Modena i rider hanno scioperato contro Deliveroo e non solo per il peggioramento delle tariffe e per vedersi riconosciute una serie di richieste che avanzano da tempo. In tutta Italia i rider si stanno organizzando contro i colossi del food delivery, lo fanno anche a Firenze e di seguito direi di leggere il comunicato dei rider fiorentini. Scrivono: in questo 1 maggio decidiamo di scioperare. Decidiamo di scioperare perché siamo stanchi di non ricevere risposte alle richieste di chiarimento sul continuo e ingiustificato decremento delle tariffe di consegna. Un compenso già poco congruo nell'ordinario e che, visti i rischi a fronte dell'emergenza Covid-19, avrebbe dovuto vedere degli incrementi, non degli abbassamenti. In questo 1 maggio, dalle 19 in poi, abbiamo deciso di rifiutare tutti gli ordini in modo da bloccare l'erogazione del servizio. Il primo blocco, lanciato per la data evocativa del 1 maggio, non è che l'inizio di una serie di mobilitazioni verso le quali stiamo già registrando una straordinaria aderenza da parte di tutti i rider. Più volte abbiamo richiesto spiegazioni, troppe volte siamo stati rilasciati inascoltati. Paradossale è non avere neanche un vero interlocutore, per cui procederemo ad oltranza, fino a quando le aziende non usciranno dal limbo di questo sistema distopico che con flussi di bit genera risposte insensate. Esigiamo un'interlocuzione seria. Pare assurdo dover formulare delle richieste che in un sistema rispettoso del lavoro e della sua dignità di certo non avremmo avanzato. E cosa chiedono i riders? Fondamentalmente sono 5 i punti. Il primo, ridiscussione delle tariffe e trasparenza sulle logiche di calcolo. In base ai nostri calcoli empirici, una maggiorazione del 30% delle tariffe dovrebbe portare la situazione ad una condizione di accettabilità. Secondo, revisione delle aree di login. Più volte è stato chiesto di creare delle zone cuscinetto in cui poter effettuare login nell'area lavorativa. Molti di noi si trovano a dover correre da un lavoro all'altro e oltrepassare di pochi minuti o addirittura secondi la soglia d'ingresso per vedersi abbassare bruscamente le tanto agognate statistiche appare una compromissione della nostra sicurezza. Terzo punto, fornitura repentina dei DPI, dispositivi di protezione individuale, mai arrivati. La cosiddetta fase 2 o la successiva fase 3 prevederanno l'uso di massiccio di dispositivi di sicurezza. È inammissibile lasciare ai rider l'onere di procurarseli da soli. Quarto punto, reintroduzione del minimo orario garantito. Quinto, creazione di un canale di assistenza ai rider, anche al di fuori dell'orario lavorativo. Firmato, i rider di Firenze. Da parte nostra sicuramente sostegno e solidarietà piena, seguiremo anche questa vicenda da vicino, vediamo magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane di parlarci direttamente e sentire la loro voce qua ai microfoni di Radio Wombat. Allora, rimaniamo a Firenze per la terza notizia. E, avevo promesso alto e basso e eccoci. Andiamo a casa di Nardella. Andiamo a casa di Nardella, perché dopo la figlia di Salvini, che domanda a babbo, anzi no, papà, perché quel signore ce l'ha con te? Ecco che arriva sulla scena, ovviamente per merito del padre, anche la figlia di Nardella. Sì, perché Nardi ha pubblicato un paio di giorni fa un post sulla sua pagina Facebook. Un post con la figlia che indossa il grembiule davanti allo schermo del PC, in il grembiulino quello blu col colletto bianco, sapete, il classico. Ed è davanti allo schermo del PC a sedere sul tavolino in video lezione con le maestre della sua scuola elementare. Nardella pubblica la foto della figlia e scrive questo nel post. Vado a prendere. Allora, scrive: questa mattina mia figlia Amélie ha fatto una sorpresa alla maestra con i suoi compagni. Si sono vestiti con i loro grembiulini prima di cominciare la lezione a distanza. È stato un gesto spontaneo, frutto di un desiderio forte di ritorno alla normalità. Abbiamo 10 milioni di bambini e adolescenti in Italia che meritano di più da tutti noi. Sono il centro emotivo del nostro paese, sono il ritmo del tempo familiare e sociale, sono la nostra speranza e il nostro futuro. Ma il futuro dei bambini è oggi, domani sarebbe già troppo tardi. Allora, io ho almeno tre commenti da fare su questa cosa. Il primo è che l'ultima frase non vuol dire niente, ma incredibile, non vuol dire niente. La ripeto: il futuro dei bambini è oggi, domani sarebbe già troppo tardi. Assurda. Allora, il secondo punto che invece voglio proporre è: Nardi, hai chiamato la figlia Amélie? Cioè, hai la moglie francese, Nardi? Com'è questo fatto? Oppure ti è piaciuto tanto tanto il film, come si chiama? Il fantastico, il meraviglioso mondo di Amélie? No, chiedo perché sono curioso, quindi Nardi, per favore, facci sapere, magari ci scrivi sul pad. E poi soprattutto, cosa ci vieni a raccontare, Nardi, del gesto spontaneo di 20 alunni delle elementari che quindi si sarebbero coordinati autonomamente per mettersi il grembiule e compiere questo gesto tutti assieme davanti alle maestre in video lezione? Sicuramente è un gesto spontaneo, non abbiamo dubbi, è l'aggettivo giusto, spontaneo. Cioè, oltre quindi all'opportunismo di questo post, io direi che questo miele, Nardella, è orticante, eh? Fatelo dire, sì. Ancora una notizia da Firenze, è quella della mappa delle realtà, una mappa in aggiornamento che da un paio di giorni è stata pubblicata innanzitutto sulla pagina della Polveriera, ma è stata ricondivisa da un sacco di altre realtà e persone. La si può trovare per adesso sui social, ma molto presto anche sui siti, è tuttora in aggiornamento. È una mappa che chiamata la mappa della Firenze solidale, è una mappa online interattiva che raccoglie tutte le iniziative del territorio di solidarietà dal basso di Firenze e dintorni. Il link lo si può trovare, dicevo, sulla pagina Facebook intanto della Polveriera, ma la mappa è stata realizzata su OpenStreetMap, è divisa per sezioni, sì, molto bella, ci sono colori diversi per ogni zona di riferimento. L'invito è quello a contattare i centralini dei vari quartieri per o dei vari comuni anche per aiutare o per essere aiutati, e divide le realtà che si stanno muovendo, le iniziative che si stanno muovendo in questo, in due categorie: quella sul sostegno alimentare gratuito e spesa solidale, e quella invece sulla spesa solidale o le commissioni. Ora, senza dare tutti i dettagli, faccio soltanto riferimento ad alcuni dei posti a cui si può far riferimento per questo. Ad esempio, per quanto riguarda il centro del di Quadarno, zona San Lorenzo, Sant'Ambrogio, Ognissanti, si può fare riferimento alla Polveriera Spazio Comune o agli anelli mancanti, anche Santa Maria Novella, quindi. Per Rifredi, il quartiere 5, Potere al Popolo e il circolo Arci Le Panche, il Campino. L'Oltrarno, invece, il laboratorio di Laddarno e l'occupazione di Via del Leone. Il CPA Firenze Sud della rete sociale Fuori Mercato è riferimento per le cure, Campo di Marte, Sorgane, Coverciano e la zona dell'Oltrarno fuori dal centro. Le minime nel quartiere 2 invece sono coperte dal fondo comunista, le piagge dalla comunità delle piagge, il centro sociale Il Pozzo, e poi ancora il Camilo Cienfuegos a Campi Bisenzio, i Sicobas a Prato, la rete Non Una di Meno, cooperativa CAT, Circolo Arci Porta al Prato per la distribuzione di pasti caldi per donne, sex workers e trans. E poi invece, per questo faceva riferimento, come detto, al sostegno alimentare. Per la spesa solidale invece si può guardare la Brigata di Solidarietà Popolare di Novoli per il quartiere appunto di Novoli, i Rude Boys Rifredi per Rifredi, così come anche l'occupazione di Viale Corsica sempre per Rifredi, Bagno a Ripoli e Grassina, Mondeggi Bene Comune. Ma questi sono soltanto i primi posti, le prime iniziative che sono state mappate. È tuttora in aggiornamento questa mappa. Entro pochi giorni sarà rilasciata per intero, si troverà più ancora di quanto già non la si trova su siti e mailing list. Beh, un'iniziativa questa di raccolta semplice ma anche necessaria, credo, a mostrare quanto larga, quanto ampia e direi anche quanto comune sia la rete solidaristica tuttora attualmente attiva. Per errori sulla mappa oppure per aggiungere delle iniziative che possono essere state dimenticate, è richiesto di scrivere alla pagina Facebook La Polveriera Spazio Comune oppure all'indirizzo lapolverierapaziocomune@inventati.org, visto che la mappa è uno strumento di tutti e di tutte. Fra l'altro, qua su questa radio da domenica prossima abbiamo tutta l'intenzione di svolgere alcuni aggiornamenti dai territori. Andremo a interloquire direttamente con chi queste iniziative solidaristiche le sta portando avanti e faremo con loro considerazioni, ascolteremo i racconti e parleremo, sì, senz'altro anche delle prospettive di tutto questo. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Bene, mi segnalano che la mappa è già stata pubblicata anche sul sito della Polveriera, lapolveriera.noblogs.org, quindi si può stare tranquillamente fuori dai maledetti social. Come dicevo, da domenica prossima approfondimenti con aggiornamenti dei territori su questo, ma adesso l'ultima notizia da Firenze, che è questa. In un modo inusuale, sì, è iniziato il 5° Festival della Letteratura Sociale Fiorentino. Con un comunicato che vi invito ad andare a leggere direttamente, è pubblicato sulle pagine del Festival e di nuovo su quella della Polveriera, è stato annunciato come il Festival di Letteratura, che tradizionalmente si svolgeva a fine maggio, si stia dotando di nuovi modi per tenersi comunque, per aver comunque luogo. In particolare le date di un festival fisico, reale, fatto di persone, con banchini, autori, editori, eccetera, non sono state annullate, ma sono solo state spostate. Come si legge infatti nel comunicato, se sarà opportuno il festival si svolgerà a giugno con le dovute accortezze, se sarà più opportuno ancora aprirà dopo l'estate, vi faremo sapere presto. Intanto, e non in alternativa, il Festival di Letteratura Sociale si scompone in un maggio e giugno tutti letterari tramite le frequenze radiofoniche di Radio Wombat, la radio autogestita fiorentina, su cui ci state ovviamente ascoltando anche adesso. Ogni domenica alle 15.30 andrà in onda Poio It, Lettere Contrarie, un programma tutto dedicato alla letteratura e più precisamente a quella letteratura portatrice di una cultura libera, solidale e critica della società capitalista in cui viviamo. Romanzi, saggi, poesie e riviste accomunate dalla convinzione che la cultura abbia un valore incommensurabile e debba essere condivisa e accessibile a tutti. Presto ci saranno maggiori informazioni col programma degli eventi e degli ospiti. Chi volesse partecipare è invitato a inviarci proposte, contributi o dichiarazioni d'amore, che sono sempre gradite. Costruiamo oggi un nuovo futuro, facciamolo insieme. La puntata di oggi è andata in onda infatti alle 15.30, ha parlato della storia di stampa alternativa e dei mitici libretti delle 1000 lire continuerà ogni domenica, poi ci saranno le repliche 2 volte a settimana, ci saranno i podcast sul sito della radio di settimana in settimana. Come sapete ormai aggiorniamo il palinsesto e la domenica sera pubblichiamo sul sito di Wombat quelli che saranno gli appuntamenti della settimana a venire, quindi chi se lo fosse perso avrà almeno 2 occasioni di riascoltarlo in diretta, cioè insomma in onda, oltre che approfittando del podcast. Finiscono qui le notizie cittadine, adesso direi di mettere una canzone e poi torniamo, sì, dopo la canzone con qualche notizia dall'Italia. Che canzone metto? Allora, sì, quella a grande richiesta, va bene, a grandissima richiesta, torna Autocertificazione. Manca la pasta, birra, vino e tutto il resto. È quasi ora di ricompilare. Sempre che Conte non voglia cambiare. In fila come degli zombie alla cassa, con quella vecchia che mi scassa. Perché non ho la mascherina e sono fatto di amuchina. Mi sto rompendo il cazzo, ti giuro che collasso. La mia pazienza sta finendo, il conto in banca sta piangendo. E se mi mettono in cassa integrazione, te la do io l'autocertificazione. Mia figlia non farà la sua maturità, ma ciò che conta è l'autocertificazione. La Juve vincerà anche la Serie A, perché ha firmato l'autocertificazione. Che ha fatto questo minchia di virus, forse i nani da giardino, oppure i russi o dei cinesi, per non complotto degli obesi, che vogliono fare fuori il mondo, per poi mangiarsi tutto loro. Io non mi fido della televisione, ma solo dell'autocertificazione. Mi sto rompendo il cazzo, ti giuro che collasso. Il calendario è troppo lungo, mi sta crescendo pure un fungo. Magari è buono da mangiare, magari mi può far volare. Mia figlia non farà la sua maturità, ma ciò che conta è l'autocertificazione. La Juve vincerà anche la Serie A, perché ha firmato l'autocertificazione. Il mondo cambierà, la noia passerà, se avrai stampato l'autocertificazione. L'estate arriverà, il virus se ne andrà, ma avremo ancora l'autocertificazione. Rieccoci per le notizie dall'Italia. Stavo vedendo che ci sono un sacco di ascoltatori, quindi intanto saluto tutti, ciao in quanti mi state ascoltando, che bello. E allora, per chi si è connesso, chi si è collegato più tardi, ricordo che potete entrare in contatto con me tramite posta wombat@insiberia.net oppure direttamente, più velocemente, sul pad, il cui link si trova sulla pagina iniziale della radio, cliccando su Diretta Wombat nel primo post che c'è sul blog della radio. Quello che scrivete lo leggo direttamente, non per forza in onda, eh. Allora, iniziamo quindi questa seconda parte, questo secondo blocco di notizie. Sono le notizie fuori da Firenze, la prima arriva dalla Toscana, da Massa precisamente. Andiamo a vedere infatti le recenti vicende di Casa Rossa occupata. Casa Rossa è uno spazio liberato nel territorio di Massa, per l'esattezza è l'ex casa cantoniera di Montignoso. Da 8 anni, in modo collettivo e organizzato, è stata e auto-organizzato, è stata trasformata da un luogo di abbandono a centro di aggregazione politica, sociale e culturale, ma sono sicuro che tanti di quelli che ascoltano già lo sanno. Così come probabilmente in tanti già sanno quello che è capitato alcuni giorni fa, ovvero la notte del 29 aprile. A Casa Rossa quella notte c'è stato un principio di incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, l'incendio è stato presto spento e comunque è interessato soltanto la piccola stanza accanto al bar. Sono bruciati gli oggetti all'interno, molti libri, 2 tavoli, il divano in legno e le panche. Nel locale sono crollati gli intonaci, ma non ci sono stati danneggiamenti a elettrodomestici, all'impianto audio, oppure frigoriferi che sono invece collocati in altre stanze. Per fortuna nessuno si è fatto male e anche il vicinato non è stato interessato da nessun tipo di conseguenza, anzi, a quanto riportano i compagni, è stato proprio il vicinato ad allertare prontamente le persone di Casa Rossa che sono accorse assieme ai vigili del fuoco, segno evidente di un felice rapporto costruito negli ultimi anni. Come ho detto, le cause non sono ancora chiare, infatti staremo a vedere. Però intanto le compagne e compagni della Casa Rossa dal giorno successivo hanno deciso di tornare a vivere questo spazio per non lasciarlo incustodito e per avviare anche i lavori di messa in sicurezza. Ieri l'altro, il 1 maggio, hanno pubblicato un comunicato a riguardo sul loro sito, che è casarossaoccupata.wordpress.com. Un comunicato che ripercorre un po' il lavoro fatto fuori da Casa Rossa nelle ultime settimane e che delinea prospettive per l'immediato futuro e chiede anche un sostegno, un contributo. Ma andiamo a leggere cosa hanno scritto. Appena iniziato il periodo di quarantena, abbiamo chiuso l'immobile e attivato una rete mutualistica mettendo a sistema, con gli sportelli telefonici, i vari percorsi che si erano già intrecciati con il nostro. Solidarietà e sostegno reciproco sono la base della società che immaginiamo e in questi giorni di difficoltà cerchiamo più che mai di metterli in pratica. La situazione per molti e molte sarà sempre più difficile e queste pratiche quindi saranno sempre più necessarie. Per questo stiamo organizzando la Casa Rossa in vista della cosiddetta fase 2, perché possa diventare uno strumento al servizio della comunità come base per il mutualismo. Abbiamo quindi deciso di attrezzare il fabbricato esterno lato mare come magazzino per la raccolta alimentare allo scopo di attivare nel breve periodo la distribuzione di pacchi alimentari per tutti i singoli o le famiglie che si troveranno in difficoltà economica nel periodo prossimo. Nei prossimi giorni, appena il magazzino sarà allestito, comunicheremo nei dettagli gli orari per contribuire alla raccolta e i numeri telefonici da chiamare per ricevere il pacco, perché lo abbiamo sempre detto, nessuno deve essere lasciato solo, oggi più che mai. Allo stesso tempo, in queste ore, stiamo facendo una valutazione reale dei danni subiti nella parte della struttura colpita dall'incendio, ringraziandovi dei tantissimi messaggi di solidarietà che ci sono arrivati. Vi chiediamo di darci una mano a coprire le spese che dovremo affrontare per risistemare tali spazi, allestire giardino e magazzino. Abbiamo quindi deciso di attivare una raccolta fondi di solidarietà per chi vorrà anche economicamente aiutarci in questa nuova sfida. E ci sono poi dettagli per la donazione, quindi il IBAN, la causale, l'intestatario. E concludono il comunicato con: anche se ancora non possiamo essere fisicamente vicini, lo siamo grazie agli ideali, alla necessità e alle lotte che ci legano. Insieme siamo sicuri di poter affrontare le grandi sfide che ci si presentano davanti, sia a livello sociale sia politico. Essere tornati in Casa Rossa è un passo in questo senso, e per questo oggi, nonostante tutto, è per noi ancora una volta un 1 maggio di lotta. Rilanciamo quindi anche noi questo invito, assieme ovviamente a tutta la nostra solidarietà. Ricordo che i dettagli per la donazione sono sul loro sito, casarossaoccupata.wordpress.com, www.wordpress.com e magari vediamo nell'ambito del percorso di approfondimento sui territori che abbiamo annunciato prima di contattare anche loro, così ci danno anche qualche aggiornamento, sì, su queste frequenze prossimamente, sì. E poi andiamo a Roma, dove 1 maggio 2020 nasce Radio Forte, libera, autoprodotta, autogestita. È nata una nuova radio, siamo contentissimi di annunciare questa cosa, di una nuova radio autogestita che sta nel nostro... nostra sorella, come lo sono già diverse altre radio, da Genova a Bologna, a Napoli, passando a questo punto finalmente anche per Roma. Siamo davvero contenti, non che Radio Onda Rossa già non lo fosse, ma è una nuova radio che nasce nel laboratorio del Forte Prenestino. Per adesso è una web radio e scrivono: il bisogno e la voglia di creare una radio sono nati in questo periodo di quarantena, consapevole e un po' forzata. I rapporti umani si sono allentati, la socialità si è affievolita e alcune persone mostrano addirittura diffidenza verso gli altri. Radio Forte, bellissimo nome fra l'altro, vuole intrattenere, comunicare, informare, far riflettere e sorridere. Tutte cose che soprattutto in questo momento diventano ancora più indispensabili. Era da un po' che avevamo in mente di realizzare una radio e la situazione emergenziale in atto ci ha dato la spinta giusta. Vogliamo usare questo strumento anche per colmare un divario che si sta allargando smisuratamente, facendo sentire le persone sempre più lontane, più sole, scollegate e divise. I temi che affrontiamo sono quelli che abbiamo sempre discusso e portato nelle assemblee, nelle strade e nelle piazze. La radio ci dà la possibilità di arrivare più lontano delle nostre singole voci proprio oggi, che per volontà, imposizioni o necessità ci troviamo ad essere così separati. Un amplificatore potente che estende i nostri pensieri e che ci circonda nonostante tutto e ci rende ancora connessi e intangibilmente uniti. Buon ascolto, Radio Forte. Radio Forte può essere contattata in diretta, ma non solo, sul loro canale Telegram, non so dare il link, oppure sì, è Radio Forte. Sì, è Radio Forte. Si può ascoltare da StreamPunk, dove s.streampunk.cc/radioforte, dove anche si può ascoltare questa radio, Radio Wombat. Ovviamente ci sono anche una serie di altri modi, in particolare Radio Forte è presente sul database di radio-browser.info, oppure su tutta una serie di app con i nomi difficilissimi che non mi azzardo nemmeno di dare. Quindi ben nata Radio Forte, siamo davvero felici di questa notizia. Più informazioni sono anche sulla pagina del Forte Prenestino, cioè forteprenestino.net. Abbiamo anche una sorpresa, però forse è ancora presto per annunciarvela, però noi di Radio Wombat vogliamo nella settimana che viene realizzare in una delle dirette quotidiane, vediamo quando, forse giovedì, ma è presto ancora per sbilanciarci. Sicuramente è una volontà, sicuramente lo faremo. Una bella puntata in cui contattiamo tutte queste radio, parliamo con loro una dopo l'altra, ascoltiamo che cosa ci raccontano, le loro attività, la loro storia. Quindi sul palinsesto che sarà pubblicato questa sera sulla pagina di Radio Wombat ci sarà probabilmente anche questo appuntamento, e se non lo annunceremo, seguite, che sarà un appuntamento davvero imperdibile, sì. Allora, un attimo che devo cliccare sul link qua, Eccoci, erano notizie dall'Italia, quelle che stavamo dando, ed ecco la penultima. Siamo adesso a Brescia, andiamo a Brescia dove... Vabbè, il titolo è questo. Coronavirus. Medici albanesi festeggiano in hotel la fine della missione a Brescia, ma vengono multati e denunciati. Allora, la faccio breve, anche se si meriterebbe un sacco di spazio questa notizia. Dunque, i medici albanesi che stavano festeggiando la fine della missione in Italia si sono ritrovati nella stessa camera di albergo, nell'albergo di Brescia in cui erano ospitati dall'inizio del periodo di permanenza in Italia. Erano una decina di medici, infermieri albanesi, aiutavano agli ospedali bresciani e il proprietario dell'albergo però la sera, sentendo Baccano, ha pensato bene di chiamare le forze dell'ordine. E così è andata che il gruppo di specialisti albanesi, che è subito dopo ieri l'altro è tornato a Tirana, dopo un mese passato in corsia per l'emergenza del Covid, si è beccato una bella sanzione con multe di 500 euro a testa. Erano questi medici in una stessa camera, come detto, e sono stati sanzionati per l'inosservanza dei divieti. In due sono stati anche denunciati per resistenza a oltraggio, perché qualcuno del contingente albanese ha reagito male, non l'ha presa bene questo intervento della polizia, così due denunce anche per resistenza e oltraggio. Sul fatto sta indagando la questura, vecchia scuola, wow! Va bene, concludiamo questa parte dedicata alle notizie dall'Italia con la melodiosa voce del nostro Andrea Scanzi personale e la sua rassegna stampa. Avete ovviamente indovinato già di chi sto parlando, Antonio Probo. Buona, buonissima Segolas a tutti i wombattini qui da Antonio Probico. È una segna stampa il 3 maggio 2020, una segna stampa che sarete orgogliosi di raccontare, insomma, anche con parole vagamente diverse ai vostri figli che non avrete. Prima notizia tratta dalla Svampa, giornale quotidiano ogni giorno. Mario Giordano, non condivido il pensiero di Vittorio Feltri, ma sarò sempre contento di ospitarlo e di lasciargli dire quello che crede. Abbiamo quindi un nuovo Voltaire. Ecco, quindi ringraziamo Mario e il suo falsetto stellare. Seconda notizia di questa trilogia di quattro notizie, come al solito, il Corriere della Cheta, il nostro giornale, insomma, il riferimento per la politica economica. Infatti siamo a Bologna, un nostro economista, Gianni Morandi, allora, la foto nel parco senza mascherina fa infuriare i follower. Lo showman bolognese si è così giustificato su Twitter: stavo raccogliendo la cacca del mio cane con la bocca, quindi chiaramente non poteva, ecco, indossare la mascherina, stavo solo, ecco, un attimo il frangente. E quindi, bene, insomma, salutiamo anche il nostro amato Gianni Morandone, ecco, le sue mani piene di merda. Terza notizia, verso il calzino, allarme del capo della polizia Franco Gabrielli: con la fase 2 tornerà anche la microcriminalità, oltre che le consuete grigliate a Sollicciano, che comunque, insomma, siamo primavera, quindi non mancheranno. Quindi, d'altronde, criminali, occhio, andate in carcere, però potete degustare, ecco, le specialità del Val d'Arno. E l'ultimissima notizia, poi chiudiamo perché inizio quasi ad avere vergogna a un certo punto. Quarta notizia da TG Rom 24, mondo dell'internet, Umbria, figuratevela, Umbria, registrato qui il più basso indice di contagio. Ma d'altronde, hanno mai vinto qualcosa questi Umbri? Bene, vi lasciamo questo enigma. Antonio Probox è tutto. Un carissimo saluto, ma carissimo nel senso di tendenzialmente costoso. Arrivederci.

fine dell'epidemia, dove i guariti erano aumentati al 74% e i nuovi infetti al 6%. Oddio, quanti ascoltatori, sono davvero emozionato. Fra gli altri, a regola ci ascolta anche Darione, che ci ha appena scritto sul pad. Ci ha scritto: Dario, io mia figlia la chiamo come cazzo mi pare, antagonisti di merda, verrò a prendervi uno ad uno. Aggressivo, Darione. Ti vorrei ricordare, Dario, che c'è comunque distanziamento sociale, io non sono un tuo congiunto e nemmeno gli altri lo sono, non ci puoi venire a prendere. E comunque sei tu che dici i nomi dei tuoi figli, pubblichi le foto, per esempio nella descrizione del tuo profilo c'è scritto come si chiamano tutti e tre i tuoi figli, non ricordo il terzo, ma l'altro si chiama Cosimo, Cosimo dei Medici. Sicuramente sarà Lorenzo l'altro nome. Va bene, ma con questo bellissimo sottofondo degli Operation Ivy Unity, che metto ancora per 20 secondi, così tiro un respirone e andiamo a farci un po' seri, sì. Va bene, per le notizie internazionali è questo il blocco dedicato ad esse, ce ne andiamo adesso in Turchia. Andiamo in Turchia, da dove purtroppo è arrivata questa settimana la notizia della morte di Mustafa Koçak, che aveva 28 anni ed era membro del gruppo musicale Group Yorum. Avevamo dato quasi un mese fa, era il 3 aprile, la notizia della morte della cantante del Group Yorum, Elin Bolek, morta dopo 288 giorni di sciopero della fame. E adesso, dopo 297 giorni di sciopero, è morto anche Mustafa Koçak, che scioperava contro la carcerazione sua e quella di migliaia di altri prigionieri politici, arrestati e condannati con processi irregolari sotto ogni punto di vista, e poi picchiati e torturati nelle carceri di Erdogan. Sono stati fra l'altro minacciati pesantemente i suoi familiari, i suoi amici, ed è anche stato arrestato e condannato all'ergastolo anche l'avvocato che lo aveva difeso, con l'accusa di violazione dell'ordine costituzionale. Una pratica questa purtroppo frequente in Turchia per impedire la difesa dei prigionieri politici. Negli ultimi giorni le autorità turche avevano inoltre tentato di sottoporre Mustafa Koçak, ormai ridotto a pesare 29 kg, all'alimentazione forzata attraverso l'intrusione di una sonda nello stomaco, una pratica molto invasiva e molto pericolosa per chi la subisce e condannata peraltro da Amnesty International come forma di tortura, ma anche direi dal buon senso. Ma queste situazioni, questa ordinarietà della legge e delle carceri turche è ormai ben nota in tutto il mondo, anche se contro questo non viene fatto nulla da quei leader europei innanzitutto che fingono indignazione, mentre intanto con la Turchia proseguono senza sosta i rapporti economici e militari e noi delle loro lacrime di coccodrillo non sappiamo, insomma, che cosa farcene. E noi intanto temiamo di doverci trovare fra qualche giorno a parlare di nuovo di tutto questo. Per via delle condizioni di Ibrahim Gökçek, bassista del gruppo Yorum, che sta anche lui lentamente morendo a causa dello sciopero della fame. Infatti è arrivato oggi a 317 giorni di sciopero consecutivi. Da pochissimo è stato pubblicato un lungo comunicato del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che invita ad agire immediatamente per evitare che la situazione dei detenuti politici si aggravi ulteriormente. Scrive fra i vari passaggi anche questo il PKK nel suo comunicato. Ogni giorno bisogna agire per liberare tutti gli ostaggi politici nelle prigioni. Un massacro è praticamente alle porte. Bisogna alzarsi prima che le bare comincino ad uscire dalle carceri. Le case, i balconi, le finestre, le strade devono essere usate come piattaforme per le azioni. Gli artisti devono partecipare a questa azione con la loro arte. Ovunque deve essere trasformato in un'area di azione fino a quando non si otterranno i risultati. Ibrahim Gökçek deve vivere e tutti i ribelli devono essere protetti. La dichiarazione, il comunicato, si conclude sottolineando come la memoria, gli ideali di lotta e libertà dei due membri deceduti del gruppo Yorum continueranno a guidare l'azione del PKK per l'autodeterminazione del popolo curdo. E scrivono: esprimiamo ancora una volta le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici di Alin Bolek e di Mustafa Kocak, promettendoci di conservare i loro ricordi nella nostra lotta per la democrazia e la libertà con la distruzione del regime fascista. In una lettera inviata inviata al giornale L'Humanité francese e tradotta però anche in italiano, io ad esempio l'ho trovata sul sito comune-info.com, ma è pubblicata integralmente anche su diversi altri siti. Dicevo, in una lettera Ibrahim Gökçek dichiara: nelle nostre canzoni parliamo di minatori costretti a lavorare nei bassi fondi, di operai assassinati da incidenti industriali, di rivoluzionari uccisi sotto tortura, di abitanti dei villaggi il cui ambiente naturale è distrutto, di intellettuali bruciati, di case distrutte nelle baraccopoli, dell'oppressione del popolo curdo e anche di coloro che resistono. Parlare di tutto questo è considerato in Turchia come terrorismo. Ed è infatti proprio di questo che sono, e per questo che sono accusati i membri del gruppo Yorum, ma non solo. Ibrahim conclude la sua lettera con queste parole: finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, mi aggrapperò alla vita in questa marcia verso la morte. E ovviamente noi adesso mettiamo una canzone del gruppo Yorum. başka düşeli canım, aşk oldu ile pişeli. Yeşil dağlar menekşeli canım, yeşil dağlar menekşeli. Yeşil dağlar menekşeli di ritorno, e anzi scusatemi, sono un pochino scombussolato dall'ultima notizia, ma intanto vedo che ci sono sempre più ascoltatori, li saluto tutti, saluto anche chi mi sta scrivendo, saluto Ricca, Francesca, Claudio e anche Steamboy che mi chiede come si chiamava la canzone rifatta degli Offlaga Disco Pax e commenta che era magnifica. Sì, sì, cazzo, era proprio magnifica. Si chiama Virus Pierre. La canzone si intitola Virus Pierre, è stata rifatta dagli Arcella Disco Pax. La si può trovare in diversi posti, tra cui YouTube. Allora, ritorniamo e anzi rimaniamo sugli esteri, però in realtà dovrei preparare la canzone di dopo, ma e quindi sì, vi lascio sentire un po', sì, vi lascio sentire un po' i Doors. Va bene, eccomi. Ritorniamo sugli esteri, andiamo in Chiapas e nei territori del sud-est messicano. Le ZLN, l'esercito zapatista di liberazione nazionale, ha chiuso i caracoles e a causa del coronavirus ha invitato a non abbandonare le lotte in atto. Allora, c'è un comunicato del ZLN che è stato tradotto recentemente questa settimana in italiano e che sta in questi giorni girando abbastanza in diverse mailing list e piattaforme e che mi sembra giusto leggere anche qui. Al popolo del Messico, ai popoli del mondo, al Congresso Nazionale Indigeno, alla Sexta Nazionale Internazionale e alle reti di resistenza e ribellione, sorelle, fratelli, hermanos, compagni, compagne, compagneros, vi comunichiamo che, considerato la minaccia reale, scientificamente comprovata per la vita umana che rappresenta il contagio del Covid-19, anche noto come coronavirus, considerando la frivola irresponsabilità e la mancanza di serietà dei malgoverni e della classe politica nella sua totalità, che fanno uso di un problema umanitario per attaccarsi reciprocamente invece di adottare le misure necessarie per affrontare questo pericolo che minaccia la vita senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, credo religioso, militanza politica, condizione sociale e storia. Considerando la mancanza di informazione veritiera ed opportuna sulla portata e sulla gravità del contagio, così come l'assenza di un piano reale per affrontare la minaccia, considerato il compromesso zapatista nella nostra lotta per la vita, abbiamo deciso di, primo, decretare l'allerta rossa nei nostri villaggi, comunità e quartieri e in tutte le istanze organizzative zapatiste. Secondo, raccomandare alle giunte di buon governo, ai municipi autonomi ribelli zapatisti, la chiusura totale e immediata dei caracoles e dei centri di resistenza e disobbedienza. Terzo, raccomandare alle basi di appoggio e a tutta la struttura organizzativa di seguire una serie di raccomandazioni e misure di igiene straordinarie che saranno trasmesse nelle comunità, villaggi e quartieri zapatisti. Quarto, di fronte all'assenza dei malgoverni, esportare tutti e todos, in Messico e nel mondo, ad adottare tutte le misure sanitarie necessarie che su basi scientifiche permettano di uscire e in vita da questa pandemia. Quinto, invitiamo a non abbandonare la lotta contro la violenza femminicida, a continuare la lotta in difesa del territorio e della madre terra, a mantenere la lotta per i desaparecidos assassinati e carcerati e ad innalzare ben alta la bandiera della lotta per l'umanità. Sesto, invitiamo a non perdere il contatto umano, bensì a cambiare temporaneamente i modi di saperci compagne, compagne, compagneros, sorelle, fratelli, hermanos. La parola e l'ascolto, con il cuore, hanno molte strade, molti modi, molti calendari e molte geografie per incontrarsi, e questa lotta per la vita può essere una di queste. È tutto, dalle montagne del sud-est messicano, per il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno, Comando Generale dell'Esercito Zapatista di Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés. C'è tante persone che mi scrivono, c'è fra gli altri chi manda cuori a tutte le compagne e compagni nelle carceri turche, ovviamente anche da parte nostra. Va bene, proviamoci. Avevo promesso serio e faceto, e è il momento del faceto. Vediamo se ritroviamo un po' di sorrisi. Allora, andiamo di nuovo lontanissimi per questa terza e ultima notizia di questo blocco. E, la notizia che vogliamo dare adesso la sapete sicuramente già tutti, ma non vogliamo esimerci dal darla anche noi. Allora, Kim è vivo. Non c'erano sue tracce da 20 giorni, ma ieri ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti nella città di Suncheon, a 50 km dalla capitale Pyongyang. Al suo fianco c'era l'arcigna sorella Kim Yo-jang, che dovrà aspettare ancora il suo turno, sì, evidentemente, per cavalcare il bianco destriero sulla montagna sacra in diretta televisiva. Quindi, come dice il detto, Kim non muore, si rivede, e noi ne approfittiamo per mandare questo fantastico pezzo, dai, di Tommy e gli onesti cittadini, che ci ricordano come Kim potrà tornare adesso ad avere cazzi col binocolo, via. tagli i capelli. La vita ti ha dato molto, Kim Jong-un, Kim Jong-un. La vita ti ha tolto molto, Kim Jong-un, Kim Jong-un. È stato alle scuole, le Alpi ti hanno fottuto, tutti quei buchi e il caglio vegetale. E già immaginavi lo zio lo do in pasto ai cani, lo zio della minchia di Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim. C'ha cazzi col binocolo, Kim. Non piglia le scatolette, Kim, Kim. È un mondo lontano e piccolo, Kim. Testone, un giovane semidio, che cosa si inventa? Atomiche immagini, facciamo cin cin, Kim. La vita ci ha dato questo, Kim Jong-un, Kim Jong-un. È stato alle scuole, le Alpi ti hanno fottuto, peggio di una discesa sui gonfiabili. Gli odiati cugini, a volte mi sento il topo. Top con l'ambiental, Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim. C'ha cazzi col binocolo, Kim. Non piglia le scatolette, Kim, Kim. È un mondo lontano e piccolo, Kim, Kim Jong-un. Ed eccoci di nuovo in diretta. Allora, ricordo che subito, una volta finita questa rassegna, trasmetteremo un esperimento teatrale curato da Underwear Theater, uno spettacolo radiofonico a tutti gli effetti. Ma prima di questo momento finiamo questa rassegna stampa. Abbiamo iniziato col comune, siamo andati alla regione, poi abbiamo fatto le notizie nazionali dall'Italia e infine quelle internazionali. Ma non era davvero infine, no no no, perché adesso cambiamo base. Allora, per l'ultima parte di questa rassegna, stampa, sì, possiamo dire così, usciamo proprio dal mondo, usciamo addirittura dalla Terra e ce ne andiamo nell'universo. Sì, perché allora, in questi giorni sicuramente l'avete visto anche voi, stanno imperversando di nuovo tre video che erano già stati pubblicati nello scorso autunno. Anzi, nella scorsa estate, ma poi nello scorso autunno, sono stati ritenuti veri dal Pentagono. Allora, si tratta di tre video nei quali, girati fra il 2004 e il 2007, girati da caccia americani, che raffigurano, cioè raffigurano, nei quali si vedono e si sentono anche i commenti dei piloti, si vedono degli oggetti volanti non identificati che volano. Allora, sono girati molto questi video. Al Pentagono a un certo punto è stata chiesta una parola di veridicità, che alla fine lo scorso autunno è stata data. In questi giorni però davvero è pieno zeppo il web, ho visto che tantissimi anche giornali le stanno rilanciando. Allora, io sono stati diffusi in origine da una fondazione fondata dal cantante dei Blink 182, e tutti i siti, tutti i giornali, anche i quotidiani famosi, americani, italiani, tutti confermano, cioè dicono che il Pentagono ha confermato. Io speravo all'inizio di dare questa notizia come dire, cazzo, marziani fra noi, pensate che 2020 pazzerello che ci aspetta. Se non fosse che però, ma questa notizia io la voglio dedicare al maestro Ottani, che ci sta ascoltando, che è un grande compositore ma anche un grande ufologo, e che, beh, io in realtà non ho visto conferma del Pentagono, cioè sono proprio andato a cercare. Ho cercato un po' dappertutto e non sono riuscito a trovare questa famosa conferma ufficiale, cioè tutti i siti dicono il Pentagono conferma, boh, cioè dove? Fatemelo vedere, se qualcuno lo sa me lo segnali sul pad. I video sono abbastanza impressionanti, cioè colpiscono. Ora, diciamoci la verità, si vedono tre cosine nere, sicuramente l'avete visti anche voi, o bianche, a seconda che mettano la camera in negativo o in positivo. Poi sono andato un pochino a fondo e ho visto che la fonte da cui avevo preso in origine la notizia, che è anche quella che più di altre la sta rilanciando, è una fonte che sostiene tante cose oltre a questa. Cioè, per esempio, sostiene che il coronavirus è una pandemia creata, finta pandemia, creata dal nuovo ordine mondiale apposta per installarci i chip sottocutanei, e che sostiene anche che dovremmo spostare, poi perché, boh, comunque dovremmo spostare il nostro sistema solare utilizzando un motore stellare che ha anche un nome, si chiama Kaplan Thruster. Sostiene la stessa fonte che c'è un gigantesco veicolo spaziale extraterrestre nascosto fra gli anelli di Saturno, ci sono ovviamente le prove, e che in Yemen c'è uno Stargate. Sostiene un sacco di cose questo sito, mi ci sono perso, va sicuro. Fra il resto sostiene anche, questa è la mia preferita, che il mondo cambierà quando la Sfinge sarà sbloccata. Sì, perché? Perché, beh, allora, ho aperto nel frattempo i link, questa cosa della Sfinge sbloccata, ma proprio intrippato, va sicuro. Allora, c'è questo tizio, è un ragazzo russo che si chiama, vediamo se lo pronuncio bene, Boriska. Musica. Boriska Kiprianovic pare un ragazzo russo che adesso ha 20 e qualcosa anni, che sostiene che nella sua vita precedente viveva su Marte e che la vita sulla Terra cambierà non appena sbloccheremo la Sfinge, sì. Allora, Boriska sostiene di aver volato nell'antico Egitto come pilota nella sua vita precedente. Ha detto tante cose. Ha detto che la Sfinge ha un meccanismo di apertura dietro l'orecchio. Sì, precisamente ha detto anche dove, dietro l'orecchio. E dice anche che i marziani sono alti 7 metri d'altezza, che vivono ancora sottoterra nel pianeta russo e che respirano anidride carbonica. E ha spiegato anche che lì c'è stata in passato una grande guerra nucleare fra gli esseri, fra i marziani. E c'erano pochi sopravvissuti che hanno costituito appunto degli habitat protettivi sottoterra e delle nuove armi. Per questo non li vediamo, perché stanno sottoterra e respirano anidride carbonica, ma ci sono. E dice anche che i marziani sono immortali e che prevengono l'invecchiamento all'età di 35 anni. Il fatto che siano immortali e che lui nella sua vita precedente sia stato un marziano a me già un pochino mi stride. Sarei curioso anche di sapere se 35 anni sono 35 anni marziani o terrestri. Comunque il ragazzo sembra veramente super sicuro. Sembra super sicuro, infatti a un certo punto... Allora, dov'era? C'avevo tanti siti su questo, proprio... Comunque c'è una storiografia pazzesca su questo tizio. Una sitografia pazzesca. Va bene, allora, insomma, non le trovo, però lui a un certo punto... Ci sono dei film e dei documentari su di lui, parecchi. sostiene che i marziani sono alti, appunto, come dicevo, quanto ha detto, 7 metri, al punto che durante una di queste interviste per i documentari gli fanno vedere le foto classiche, quelle che abbiamo dei marziani magrini, con gli occhioni, grigini, e lui si incazza proprio. Dice, no, noi non siamo così, noi siamo più come i lemuriani e gli atlantidei. Eravamo grandi, alti circa 7 metri, queste creature sono piccolissime e le spregia un botto. Ora, io vorrei chiedere su questo un commento al maestro Ottani. Fra l'altro, se questa sezione galattica marziana vi interessa, direi che anche su questo potremmo fare degli approfondimenti nelle prossime domeniche, oppure la bozziamo qui con queste stronzate, anche se era pure interessante, questa è l'ultimissima notizia che vi do oggi, questa mi è piaciuta parecchio, è quella della donna rettiliana apparsa la settimana scorsa su una pubblicità per un sapone antibatterico diffuso in Messico. Allora, c'è questo sapone antibatterico, ovviamente col tempo del coronavirus impazzano le pubblicità su questo, è stato fatto in Messico, dura 45 secondi e si vedono a un certo punto i vari medici o infermieri di un ospedale che si tolgono uno dopo l'altro la mascherina. Di questi si vede praticamente soltanto la parte alta del volto, voglio dire gli occhi, le sopracciglia, perché sopra hanno no, il cappello, come si chiama, insomma la cuffia e la mascherina sotto. A un certo punto questa tizia, che è una dottoressa, un'infermiera, non lo so, si toglie la mascherina e c'ha gli occhi con le pupille verticali, verdi con le pupille verticali. Quindi il mondo dei folli è impazzito, dicendo che in realtà è una rettiliana e che la grande società mondiale degli ebrei massoni rettiliani sta facendo finalmente capire con sistemi sempre più espliciti che sono fra noi e che presto anche prenderanno il controllo. Ora, al di là delle favate, questa tizia ce l'ha davvero con gli occhi verdi, con è buffo, molto buffo questo video. Il sapone si chiama Escudo, eh sì. Quindi abbiamo almeno tre argomenti, se li vogliamo approfondire fatemi sapere se ve ne frega qualcosa o seppure è il caso di davvero chiuderla qui. Sono i rettiliani, l'ex marziano russo che dice se si sblocca la sfinge ce la si cava, e quella prima che ho detto, cioè i tre video confermati dal Pentagono, ma boh, vabbè. Eccoci allora. Per l'ultima parte... No, cambio base. One, two, three, four. Cambio base e sto per annunciare, prima metto una canzone, poi iniziamo con quello che avevamo promesso, cioè il teatro alla radio. Ma non anticipo niente, ci sentiamo subito dopo la canzone con questo bel esperimento, godetevelo. Prima la canzone, poi il resto. Grady mama, where you been so long? Da grande voglio fare il giovinastro e so che non farò la musica da drogato.

Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! Ed eccoci di nuovo in diretta dopo aver ascoltato lo spettacolo radiofonico di Underwear. Allora, prima di tutto mi scuso tanto perché in un certo momento ho aperto il sito di Underwear e si è sentita una musica in sottofondo per un paio di minuti che non ci doveva essere. Comunque approfitto almeno per ricordare il sito di Underwear, underweartheater.wixsite.com. Comunque quando rimonterò il podcast, ricordo che infatti da stasera, da stanotte o da domani mattina al massimo si potrà riascoltare, vedrò di mettere l'audio originale, quindi si potrà riascoltare perfettamente senza la mia fastidiosa intromissione, quindi scusate tanto per questo. Allora, ringraziamo tanto Filippo Frittelli e tutto Underwear Theater per questo super spettacolo, a me è piaciuto davvero tanto, fateci anzi sapere cosa ne pensate, tanto i contatti di Wombat li conoscete ormai, sono postawombat@insiberia.net oppure per interagire con le dirette il solito pad dal quale sovente ci scrivete. Come sempre ricordo anche che tutte le domeniche sere, quindi da stasera, caricheremo il palinsesto aggiornato della prossima settimana. Ci saranno una serie di repliche delle puntate, delle varie trasmissioni e dei vari speciali che avete sentito questa settimana, probabilmente anche alcune sorprese, contatti con diverse altre radio autogestite. Rimanete come sempre all'ascolto di Wombat, anche perché fra mezz'ora va in onda la consueta replica di Uru, voci, suoni e musiche dal continente africano. A me non resta, sono esattamente le 21:30, quindi orario perfetto, non mi resta che salutarvi, ringraziare tutti quanti per l'ascolto, siete stati davvero tanti oggi, e rilanciare niente, ho già rilanciato tutto. Ci sentiamo noi la prossima settimana sulle frequenze di Radio Wombat, sempre connessi. Grazie a tutti, viva Radio Wombat! Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.